Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. È mercoledì notte, dopo le news, l'ultima edizione delle news, anche se festa c'è la replica come sempre.